English Bit di Giulia Crivelli. Review. Sully Review. Tom Hanks offers Oscar-worthy performance as heroic pilot. La recensione di Sully, l'interpretazione di Tom Hanks dell'eroico pilota, vale l'Oscar. Il Telegraph ha intitolato così un articolo sul film di Clint Eastwood, Sully, appunto, uscito in Italia il 1 dicembre, e che racconta l'ammaraggio di un aereo di linea con 155 persone a bordo nel fiume Hudson, quello che bagna New York, a seguito di un'avaria ai motori. Sully è il soprannome del capitano Sullenberger, che riuscì a evitare il disastro. La prima parola che ci interessa è review, che qui si traduce con recensione e può riguardare non solo film, ma anche dischi, libri, spettacoli teatrali. Però significa anche correzione, cambiamento, esame dettagliato che prelude al cambiamento. Come non ricordare la spending review annunciata dal governo da Renzi e da molti altri prima di lui e poi mai davvero applicata? Si può dire ad esempio The Government Review of its Education Policy, gli aggiustamenti fatti dal governo alla sua politica sull'istruzione, così si traduce education in questo caso. Se usato come verbo è regolare e segue i significati del sostantivo. She reviewed Eastwood's last movie, ha fatto una recensione dell'ultimo film di Eastwood, oppure The Parliament will review the situation later this year, il Parlamento rivaluterà la situazione più in là quest'anno. La seconda parola del titolo del Telegraph che ci interessa è worthy, che naturalmente viene da worth, valore, mentre worthless vuol dire privo di valore, insignificante, e worthwhile è un avverbio che possiamo tradurre con importante, valido, di importanza, validamente. Constant rejections made him feel worthless. I continui rifiuti lo fecero sentire inutile. The smile on her face made it all worthwhile. Il suo sorriso diede un senso a tutto. High prices in the UK make it worthwhile for buyers to look abroad. Gli alti prezzi del Regno Unito fanno sì che i compratori guardino al di là dei confini, abroad, all'estero. Tornando a worthy, a number of findings in the report are worthy of note. Alcune delle conclusioni contenute nel rapporto sono interessanti, valgono un'annotazione. The money we'll be raising will go to a worthy cause. I soldi che raccoglieremo verranno destinati a una giusta causa. Infine, he gave a speech worthy of Martin Luther King. Fece un discorso degno, all'altezza, di Martin Luther King.